Le sfide da affrontare per il sistema energetico mondiale sono sempre più complesse in uno scenario in cui transizione e sicurezza economica sono prioritarie e interconnesse. La transizione energetica è prima di tutto una transizione tecnologica, che richiede una forte capacità innovativa per avere un mix energetico sempre più decarbonizzato. La serie podcast Energia in Evoluzione ci porta alla scoperta della sfida tecnologica in corso, con approfondimenti e interviste ad esperti. Energia in Evoluzione è un podcast originale di Radio 24, creato per Eni. Passioni, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni, superare i limiti, il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri. Stiamo per raccontare una storia piena di sorrisi, ma anche una storia tragica. E quindi non potrete non notare la differenza tra la musica che vi faremo ascoltare e i fatti dei quali parleremo. E un po' la vita è così, un po' stiamo per raccontare la storia di un personaggio che però ha fatto, oltre che del suo talento, ha fatto del sorriso e della beffa la sua cifra stilistica. E quindi insomma non abbiatevene se c'è una dicotomia pesante tra le cose che diremo e la musica che vi faremo ascoltare. Togliamoci il pensiero, parliamo subito della parte più dolorosa e andiamo a una notte di fine dicembre del 1998. Siamo a Milano, in zona Corso Sempione, stanno inaugurando un nuovo locale, il Rio Alto. 300 persone che sono lì per ascoltare buona musica e per scambiarsi gli auguri di Natale. Sul palco sale la Biba Band. La Biba Band è un gruppo particolare, un po' un super gruppo nel quale hanno suonato in tanti, tutti i grandi musicisti appunto che gravitavano attorno alla scena milanese. Chiamiamolo un gruppo fusion. Tra i suoi fondatori c'è Faso, il bassista di Elio le Storie Tese. È quasi mezzanotte, il concerto è iniziato, c'è una bellissima atmosfera, voglia di festa, persone brave e simpatiche sul palco. Poi l'atmosfera si interrompe all'improvviso e uno dei musicisti che in quel momento sta suonando le percussioni, ma come vedremo non è solo un percussionista, uno dei musicisti crolla a terra, la musica si ferma, attorno a lui ci sono tutti i membri della band e la situazione appare da subito molto grave. Paolo Panigada, in arte Feyez, protagonista della nostra storia di oggi, è a terra immobile. Ma lo stesso Feyez che origine aveva come soprannome? Da una variazione successiva, dall'iniziale Mufoglias, Tati Sanguinetti un giorno lo chiamò Foyask. Allora noi tutti abbiamo detto sì, bello Foyask. Abbiamo chiamato Foyask è diventato Foyaz. Voyage. No, io so esattamente chi ha detto, no, io so a questo punto da Foyaz chi è che ha detto Feyez. L'ha detto, orca miseria, mi dispiace, mi scuso con lui, ma il tecnico di palco, quello con la barba lunga e i capelli lunghi, Paolo Paradiso, quello inglese di corte maggiore che sentiva dire Foyaz e una volta si è rivolto a lui. John Siciliano. John, bravo, è nato lui dicendo Feyaz. Come? E da lì è nato Feyaz. Era nato a Crema Paolo Panigada, luglio del 1962, fisico ben piazzato, alto, capelli portati tirati indietro, un po' parvi crenuto diciamo, raccolti in un codino. Negli anni 80 aveva iniziato a lavorare come fonico in uno studio di registrazione, lo Psaico di Milano, uno degli studi insomma mitici di quel periodo. Lui la musica non l'ha mai studiata, se si trova tra le mani uno spartito non è neanche in grado di leggerlo, però la natura gli ha fatto un dono immenso, sa suonare bene molti strumenti, la chitarra, le percussioni, il sassofono, e allo Psaico comincia a lavorare alla produzione dei dischi di Finardi, di Bertoli, addirittura anche di Mina, ma non lavora solo per i grandi nomi, perché nella Milano degli anni 80 c'è un grande fermento musicale e in particolare c'è un gruppo che si esibisce al Magia. Il Magia era un locale mitico in zona Corso Vercelli e questo gruppo gruppo piace, fa il tutto esaurito, si parla tanto di questi ragazzi, spesso devono fare il doppio spettacolo perché è tanta la gente che li vuole sentire suonare. In questa magia era fatto, entravi, poi sotto c'era una specie di cantinona nella quale si faceva musica. E Paolo si è trovato tra le mani un nastro di un'esibizione dal vivo di questo gruppo. Lo ascolta, capisce che questi ragazzi hanno qualcosa di speciale. Hanno un nome strano, si fanno chiamare Elio e le Storie Tese. E per Paolo Panigada è l'inizio di una storia incredibile che lo porterà a diventare per sempre, per tutti, Fejez. E Paolo comincia a frequentare le serate dove suonano Elio e le Storie Tese della prima ora, prima al Magia, poi più avanti sbarcheranno allo Zelig, altro locale mitico milanese, e i concerti di Elio erano cose particolari, spettacoli comici, lo sapete, con dei parlati tra una canzone e l'altra che si sposavano con i testi surreali, poi dei brani che portavano sul palco, insomma tutte cose che sapete già. E lui è incuriosito da quei ragazzi che uniscono l'ironia a una tecnica musicale eccellente, nasce un'amicizia e di lì a poco Paolo è entrato nel gruppo. Claudio Dentes, il proprietario dello studio Psycho, racconta così di Paolo che all'epoca lavorava per lui. Fu Paolo a farmi ascoltare la prima volta gli Elio e le Storie Tese. Ci suonava insieme, ma faceva anche l'assistente e il fonico da me in studio. Ed era bravissimo. Musicista, polistrumentista. Suonava la chitarra, il pianoforte, suonava le percussioni, faceva i cori, suonava soprattutto l'ovetto. Fejez era di crema, aveva gli occhi azzurri, era alto, bellissimo. Una delle persone migliori che abbia incontrato nella mia vita. Era un musicista pazzesco. Fejez era il punto di equilibrio fra il gruppo e la produzione artistica. Mi stava sempre accanto nelle registrazioni, compensava le assenze, dava le idee per gli arrangiamenti e se c'erano opinioni diverse su una melodia o un suono, alla fine ci consigliava e noi ci fidavamo di lui, della sua musicalità, del suo spirito. E Fejez, lo Psycho, ha trovato non solo un posto di lavoro, ma una vera e propria casa, si è inserito in quel mondo grazie alle sue capacità relazionali, ma anche alla sua grande, immensa creatività musicale. E lo racconta anche Cristina Cereghetti nel libro Vite bruciacchiate, che è la biografia di Elio e le Storie Tese, parla di come lo Psycho diventi un rifugio dove rimanere a dormire quando magari si andava avanti a registrare fino all'alba. Insomma, lo Psycho era il suo regno. A quei tempi gli orari in studio erano assurdi. Gli artisti iniziavano a lavorare nel pomeriggio e finivano alle prime ore del mattino. E Paolo, che aveva iniziato come assistente di studio e abitava ancora a Crema, iniziò a fermarsi a dormire in Psycho, che per i primi anni rimase una casa a tutti gli effetti. Due cucine, camere da letto e soggiorni, con la sola parte interrata adibita a studio. Dormiva nella stanza di fianco al mio ufficio, si svegliava e mi diceva: «Cri, ti va di sentire il lavoro che abbiamo registrato ieri?» Andavamo in studio e me lo faceva ascoltare, mimando contemporaneamente il pezzo. Mi faceva schiattare dal ridere. È difficile da spiegare, ma la mimica di Paolo era pazzesca. A New York, al MoMA, riuscì a farmi il commento sonoro di un quadro esposto. Un genio. E c'è la mano di Paolo dietro alla produzione dei primi dischi di Elio e le Storie Tese, con lo Psycho che è diventato il loro quartier generale, luogo dove si parla e si cazzeggia in maniera costruttiva, e lì le storie surreali nate dalla fantasia dei vari membri del gruppo diventano canzoni. Paolo nel frattempo è diventato Fejez ed è perfetto per quel gruppo, anche se non è uno dei fondatori. Viene accolto a braccia aperte da Elio, da Faso, da Rocco Tanica alias Sergio Conforti, da Cesareo, capisce la loro ironia, contribuisce alla produzione di nuovi brani, è creativo sia in studio che sul palco. È l'anima rock and roll del gruppo, non solo dal punto di vista musicale, anche per uno stile di vita più sregolato rispetto a quello. Cioè, Elio e le Storie Tese erano divisi in due: da un lato Faso, Rocco Tani, anche Feyez, che erano insomma i più adatti alla vita anche un po' rock and roll, e gli altri, Elio, Cesario e Christian Mayer, invece erano quelli più puliti, se così si può dire. Ce lo racconta anche Faso. È l'estate del 1992 o del 93, non mi ricordo bene, e siamo in giro per l'Italia con il tour Glamour, vestiti elegantissimi, con giacche dai colori sgargianti. Ci muoviamo con due Renault Espace a Nolo, alle quali avevamo dato il nome di Espace della vita ed Espace della morte. La distinzione trae origine dalle caratteristiche dei due equipaggi che le conducevano. In quella della vita viaggiavano Elio, Cesario, Christian e Mangoni, notoriamente puntuali, non fumatori, partenza intelligente 2 ore prima per passare a vedere il museo dei vasetti rotti etruschi, pranzetto di 2 ore nel ristorante tipico. Mentre in quella della morte viaggiavamo io, Rocco Tanica e Feyez. Puntualità così così, fumatori, vita notturna, oggetti vari abbandonati nell'abitacolo, molta musica a manetta, panini e birra. Insomma, un po' da giovani, figa. Feyez la musica non l'ha mai studiato, l'abbiamo detto, ma diventa parte attiva nella creazione musicale di Elio e le Storie Tese, che avevano canzoni insomma nate palesemente da un lavoro di gruppo, e inserisce parti di sassofono, di percussioni, accompagnamenti di chitarra che magari danno una spinta ulteriore alla band, e poi si mette anche dietro al mixer. Emerge ancora di più lì la sua capacità creativa, quasi sensoriale. Lo racconta Antonello Aguzzi, che poi diventerà gentleman, tastierista di Elio e le Storie Tese in tutti gli ultimi decenni, che lavorava con Feyez in quegli anni allo studio Psycho. Quando ci siamo conosciuti mi ha sconvolto per la estrema apertura dei gusti musicali, la passione per tutto quello che era musica vissuta in modo istintivo, viscerale. Lui non leggeva, non scriveva le note, non aveva fatto studi classici, chi se ne frega, era lo stesso creativo nel modo più totale, e aveva un approccio molto sensoriale, mi viene da dire. Era il feeling con lo strumento, ma anche con le attrezzature dello studio. Mi sembrava di riconoscere lo stesso tipo di manualità sul mixer rispetto a quella che usava poi sui suoi strumenti. E in qualche modo, sia con gli effetti che con il banco, lui cercava di fare in modo che il banco o l'effetto suonasse. E tutti i membri della band hanno soprannomi che nel tempo diventeranno più famosi rispetto ai veri nomi: Stefano Belisari e Elio, Nicola Fasani e Faso, Sergio Conforti e Rocco Tanica, Davide Civaschi e Cesario, e così Paolo Panigada, dopo una certa serie di mutazioni, diventa Feyez, soprannome strano, peraltro non ha niente a che fare col suo nome, col suo cognome, ma è figlio di un lungo processo evolutivo che ci spiega Faso passo dopo passo. Una cosa che faccio fin da bambino è inventare un sacco di soprannomi alle persone a cui voglio bene. Paolo Panigada è una delle persone a cui ne ho affibbiati di più. Quando Paolo è entrato nel gruppo gli abbiamo dato il nome d'arte Mufogliash. Mufogliash si è velocemente trasformato in Monfoglia, Sfoglia, Foyash, Fognac, Fegnec ed infine Feyez, che sarebbe diventato il suo nome ufficiale di battaglia. Feyez ha rappresentato una specie di cellula primigenia, dalla quale la fantasia e lo storpiamento verbale prendevano il via alla ricerca di nuove invenzioni. Beh, la fantasia surreale è sicuramente una delle principali cifre stilistiche di Elio e le Storie Tese, oltre alla sapienza tecnica musicale. Se si ascolta un loro disco, insomma, si capisce subito quanto studio, quanta conoscenza c'è dietro a parti ritmiche mai banali, a melodie particolari. Spesso trovano spunto da brani del passato, ma non sembrano dei plagi. Ci sono tempi dispari che nascono dal fatto che vogliono mettere dentro delle parole a tutti i costi, a costo di cambiare la ritmica, addirittura la scansione ritmica della canzone, insomma, colpi di genio. E Feyez in tutto questo porta la sua immensa sensibilità, è attento a trovare il suono perfetto per ogni strumento, va a creare le condizioni ideali, insomma, per fare rendere tutti al meglio. Un altro dono naturale che, insomma, fa di lui, di Feyez, il tassello mancante di un puzzle musicalmente impeccabile. Una qualità straordinaria di Feyez, quella di inventare sempre qualcosa di nuovo. Lui la creatività è il potere, grazie al suo gusto musicale lui riesce a inventare dei metodi creativi per fare suonare qualsiasi strumento, o anche, per esempio, tra questo c'è anche una tecnica particolare per scaldare la voce. Facciamo insieme una piccola improvvisazione vocale. Nanai nanai nanananananai nanai nanai nanai. Buona, però un po' freddina. Io ho trovato degli esercizi per dar corpo a questa, all'esecuzione. Degli esercizi per la gola, molto semplici. Il primo è questo. L'altro è questo. Per ottenere questi risultati. Nanai nanai nanai nanai nanai nanai nanai. È molto semplice. Ciao. E per esempio durante la registrazione di uno dei primi album della band, quando ancora non avevano grandi effetti a disposizione, Paolo aveva suggerito di trovare soluzioni artigianali, diciamo così, per rendere il suono sempre più elaborato e riconoscibile, piccoli dettagli che contribuiranno al successo del gruppo, che nel frattempo sta spiccando il volo. Sono arrivati gli anni 90, il periodo glorioso di Elio e le Storie Tese. Erano anni di grande sperimentazione, quando ci trovavamo in studio per registrare i nostri primi dischi non disponevamo di grandi tecnologie, non ce n'erano, non c'erano i plugin, degli effetti, quindi facevamo di necessità virtù. E ricordo in particolare che Elio stava cantando Cassonetto differenziato per il frutto del peccato, mentre in realtà stava facendo anche merenda, per cui aveva in mano un pacchetto di cracker e in una pausa della registrazione mangiava dei cracker. A Feyez venne in mente di registrarlo lo stesso mentre aveva i cracker in bocca, per cui c'è un punto del brano dove si sente il cassonetto tutto spiaccicato. Perché? Perché ha in bocca un cracker. Da lì nacquero una serie di esperimenti sulla voce. Nel brano Porche Cindy addirittura abbiamo sperimentato i cori gargarismo, è un brevetto di Elio e le Storie Tese, ovvero bevi dell'acqua e poi rivolto verso l'alto col microfono qua canti. Quindi se ascoltate la canzone Porche Cindy troverete a un certo punto gli incredibili cori gargarismo. E così è il momento dell'esplosione, concerti che diventano sempre sold out, e sul palco non puoi non notare uno come Feyez, è grande, grosso, passa senza sosta da uno strumento all'altro, suda tantissimo, finisce i concerti con la testa che fuma, come quando si fa sport all'aperto d'inverno. L'ho scritto io stesso nella biografia di Elio e le Storie Tese: Paolo è mosso da una grande curiosità, si annoia a fare le stesse cose, percussioni, sassofono, la chitarra acustica, addirittura suonava il basso di Faso da dietro mentre Faso fingeva di parlare al telefono nella canzone Servi della Gleba. Insomma, era veramente, insomma, inventava di tutto. Gli Elio e le Storie Tese nel frattempo, nel 96, sbarcano a Sanremo, il pezzo è La Terra dei Cachi, stupiscono tutti, fanno battere le mani a tempo anche le signore, quelle della prima fila, e alla fine pensano di aver vinto, arriveranno secondi dietro a Ron, e nonostante la sconfitta, anzi forse grazie a quello, il gruppo arriva alla notorietà assoluta. Peraltro riescono ad andare a Sanremo senza snaturare la loro essenza fatta di ironia, di mondi surreali. Feyez ha superato da poco i 30 anni e ha trovato la sua dimensione nel mondo. Non ha fatto i conti con l'arrivo di quella notte che doveva essere una festa, che si trasformerà in una delle notti più tragiche per la musica italiana. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un grandissimo musicista, di un grande uomo che ha lavorato con uno dei gruppi più importanti della musica italiana. Stiamo parlando di Paolo Panigada, conosciuto da tutti come Feyez, e quindi stiamo parlando di Elio e le Storie Tese. Feyez, fonico, polistrumentista, ha fatto conoscere la band alla prima etichetta discografica che ha prodotto i loro dischi, personaggio fondamentale per la storia del gruppo, persona con doni speciali che non tutti hanno. Nessuno potrebbe citare un, come dire, un aneddoto negativo su Fayez. Era uno amato veramente da tutti, famoso anche per avere una sensibilità unica su tutti gli strumenti, sull'attrezzatura, sempre con il sorriso sulle labbra. Diventa grande suonando, lavorando con Elio e le Storie Tese fino a quella notte del 22 dicembre del 98. Lutto nel mondo della canzone per gli Elio e le Storie Tese. Si è sentito male mentre stava suonando in un locale di Milano ed è morto la notte scorsa, qualche ora dopo il ricovero in ospedale. Paolo Panigada, 36 anni, sassofonista, cantante e chitarrista del gruppo, ecco, lo vediamo nelle immagini. Il musicista è morto a causa di un'emorragia cerebrale. I componenti della band di Elio e le Storie Tese sono sconvolti per la morte improvvisa del loro compagno di lavoro e in un loro comunicato stampa hanno scritto che Paolo Panigada è morto suonando, e questo è forse ciò che ogni musicista si augurerebbe. La notizia è un trauma per tutta Milano, per i musicisti milanesi, per tutti i fan di Elio e le Storie Tese, per tutti gli amanti della musica. Non c'è più Fayez, è tutto arrivato così in fretta, sembra che non sia neanche vero. Dobbiamo tornare a quella notte del 22 dicembre per capire com'è andata veramente, com'è andato quel concerto della Biba Band col pubblico che inizia a scaldarsi già dopo i primi pezzi, con Fayez Che viene giù come un albero a cui hanno tagliato le radici, dritto, non si muove più. Qualcuno all'inizio pensa si tratti di uno scherzo, conoscendo il modo di intendere la vita che aveva lui, che avevano i membri della band. Questa sensazione purtroppo viene spazzata via in pochi secondi, non è uno scherzo. Fayez viene soccorso, caricato su un'ambulanza, portato di corsa in ospedale, ma non c'è niente da fare. Parte la terza canzone. Sta arrivando Elio, a sorpresa, non annunciato, con il flauto traverso. Ma Fayez va giù, di colpo. Si trova il dottore, si tenta il massaggio cardiaco, si chiama un'ambulanza. Al Fate Bene Fratelli parlano subito di emorragia cerebrale, non aggiungono altro. Paolo Panigada muore alle 4, dopo poche ore di coma. Adesso i medici prendono tempo, aspettano l'autopsia. Il musicista è nella camera ardente dell'ospedale. Arrivano i parenti, gli amici. Passeranno il Natale qui. Elio va avanti e indietro nel corridoio. Non ha pace. Scuote la testa. Ma che posso dire? Era lì, davanti a me. L'ho visto cadere, morire. Siamo distrutti. Non ce la faccio neppure a parlare. Se ne va così a 36 anni Paolo Fayez Panigada. La sua presenza rimane non solo nei cuori di quelli che lo hanno conosciuto e che hanno lavorato assieme a lui, ma anche negli spazi che lui ha frequentato, nei posti dove ha lavorato. Era ingombrante da vivo, è rimasto ingombrante anche dopo, nel senso buono ovviamente. In questo episodio per esempio viene evidenziata la sua presenza, episodio accaduto durante le riprese del documentario Mal presenta Elio e le Storie Tese. Alla fine però il Rigo Royal Hotel ha lasciato un segno. Se guardate bene il video, Fayez indossa un cappottoio del hotel. Lui... cioè, come fosse un fantasma. Fayez... In qualche modo con la scomparsa di Fayez si chiude un'era per Elio e le Storie Tese, come se fosse andato via un titolare della squadra, ha lasciato dietro di sé un grande vuoto, come era grande lui, col suo fisico imponente, con i suoi strumenti, con la sua presenza silenziosa mai banale. Con lui la band ha vissuto gli anni della nascita, della crescita, gli anni della consacrazione, sfornando album che sono rimasti nella storia: Italian Room, Casu su Cicti, Id Fikis, e l'ultimo realizzato con Fayez, quello nel quale c'è La Terra dei Cachi, il brano che li ha fatti conoscere. E proprio in Id Fikis, peraltro, c'è una canzone tapparella che dalla scomparsa di Fayez in poi verrà utilizzata come brano di chiusura di tutti i loro concerti, come tributo all'amico scomparso. E il gruppo per il primo periodo riduce le sue apparizioni in pubblico, non ce la fanno, non hanno voglia. Poi insomma stiamo parlando di una band particolare che non può limitarsi a salire sul palco e suonare. Elio e le storie tese sono uno spettacolo di surreale sorriso, bisogna aver voglia di ridere, di far ridere, e quindi non è semplice, e però non possono sparire. Con Fayez avevano iniziato a lavorare al nuovo disco, bisogna chiuderlo, pubblicarlo, è difficile comunque far finta che non sia successo niente perché l'assenza è troppo pesante, come racconta Faso. Non ho mai registrato una nota di basso senza che ci fosse Fayez a fare play rec, e non posso pensare di suonare, di salire sul palco a fare Servi della Gleba e non avere Fayez dietro di me che suona il finale del pezzo. Quello che è vero è che è forse quello che ha detto Francone con Manducci, il nostro tour manager, quando ci siamo parlati praticamente pochi giorni dopo il triste fatto, e cioè che si è chiusa un'epoca, cioè si è chiusa un'era di Elio e le Storie Tese, che erano quelli Elio e le Storie Tese lì. E forse paradossalmente, adesso non lo voglio dire per fare il coglione, ma veramente paradossalmente segnata da il cofanetto di Elio e le Storie Tese, perché quello è tutto quello che è stato fino ad oggi con lui insieme in questa formazione, come una squadra di calcio. Se n'è andato uno dei titolari insostituibile, e quindi non ci sono riserve in panchina e non ce ne saranno mai. Elio e le Storie Tese saranno in cinque, più l'artista completo Mangoni. E quello che rimane è un buco grande quanto era grande lui rispetto a noi. E manca la sua ironia, manca la sua fantasia, manca la sua creatività. E poi con alcuni di loro si era creato un rapporto di amicizia veramente stretto, alimentato insomma da tutto quello che la musica può generare, dalle persone, insomma chi fa musica ha un DNA particolare, e poi c'è la condivisione di tempo, di spazio. Sergio Rocco Tanica parla così del suo amico scomparso, unendo al suo ricordo anche una melodia che rende Fayez immortale all'orecchio di qualunque fan di Elio e le Storie Tese. Ancora oggi non provo dolore per Fayez, è solo gioia e gratitudine per tutto quello che ho imparato da lui e con lui. Non c'era niente di irrisolto, niente di non detto. Sarei potuto morire io un anno prima e non sarebbe cambiato niente. Tutto era al suo posto ed è al suo posto ancora oggi, che è cambiato tutto. Con Paolo c'è sempre stata solo pace e una musica bellissima che fa più o meno così. Il falco e il gabbiano. Per fortuna il tempo non ha per nulla fatto sbiadire il ricordo di Fayez, l'affetto nei suoi confronti non si è spento, anzi sembra essere aumentato. I suoi compagni d'avventura, Elio e le Storie Tese, si sono sempre comportati come se lui fosse presente in qualche modo. Tutte le persone che hanno avuto l'occasione di lavorare con lui lo ricordano, e anch'io me lo ricordo proprio per la sua allegria, per la sua capacità di farsi ben volere da tutti, modo di fare gentile, positività. Ecco, il ricordo che io ho è proprio quegli occhi azzurri che trasmettevano positività. Giorgia, parlando di Fayez, usa delle parole di peso. A volte ci sono certe persone, dice, che le guardi negli occhi e senti che ti stanno già salutando. Chissà se è così, può essere. Niente di più vero. Fayez se n'è andato veramente troppo in fretta, è stato impossibile sostituirlo, qualcuno il suo posto lo doveva comunque per forza prendere. Quando è arrivata la necessità di riempire il vuoto lasciato da Paolo, non so bene cosa sia passato per la mente dei miei colleghi, posso solo immaginarlo. Di certo era impensabile trovare un musicista che potesse coprire quel ruolo, qualcuno che fosse in grado di cantare in quel modo e di suonare una simile quantità di strumenti. Non esisteva allora né esiste oggi. Era gioco forza trovare una strada alternativa. Musicalmente parlando, non è stato difficile inserire il suono delle mie tastiere nel repertorio del gruppo. I loro album sono caratterizzati da arrangiamenti così sontuosi che praticamente in ogni brano c'è una grande quantità di materiale da riprodurre. Più complesso era l'approccio vocale. Paolo cantava molti brani da solista o da seconda voce, cosa che io non ero in grado di fare. Potevo però dare un discreto contributo ai cori, soprattutto riguardo alle voci più acute o in falsetto. Ciò presupponeva un nuovo impegno da parte di tutti a lavorare sulle armonie vocali, Paolo sarebbe stato contento. E queste sono le parole di Gentleman, che è l'altro tastierista di Elio e le Storie Tese, il tuttofare dal punto di vista musicale, l'uomo che ha preso il posto di Fayez dal momento in cui se n'è andato. Poi un altro membro della band a tutti gli effetti è sempre stato anche Vittorio Cosma, che ha deliziato tutti anche con i suoi monologhi tra una canzone e l'altra, molto spiritoso anche lui. Comunque, sostituire Fayez è sempre stata una cosa difficile. Gentleman ha lavorato per anni anche lui allo Psycho, conosceva tutto quello che sapeva fare Fayez, dal mixer alla voce, insomma era comunque il miglior sostituto possibile, non poteva essere lui insomma l'uomo destinato a raccogliere questa eredità così ingombrante. Ma lo racconta anche Rocco Tanica, che ci spiega come Fayez riuscisse a fare andare tutto al meglio in studio grazie a uno strumento di sua invenzione, il filingometro. Che cos'è il filingometro? È quella naturale predisposizione che aveva Fayez di percepire il giusto andazzo musicale di qualcosa che si stava suonando. Se magari registravamo qualcosa insieme, lui prima mi chiedeva: hai l'agio? L'agio voleva dire: sei seduto comodo, senti bene, ci sono tutte le circostanze indispensabili per suonare come si deve. Io dicevo sì, no, forse. Allora lui mi sistemava l'agio, che poteva essere l'altezza dello sgabello, oppure equalizzava la base in modo particolare per farmi ascoltare meglio, e poi appunto esercitava la funzione di filingometro. Se stavamo suonando su qualcosa di ritmico che necessitava un certo approccio, una certa attitudine, lui cominciava a fare così e diceva: sento che il filingometro non sta molto funzionando. Allora cambiavamo la parte musicale, lui spesso me la consigliava perché sapeva suonare bene tutto, io suonavo e improvvisamente il filingometro cominciava a darsi da fare e lui faceva la faccia da filingometro, che era consisteva nell'estrudere la mascella un po' in avanti, sorridere così e andare avanti indietro con la testa. Io in quel momento capivo che stavo suonando bene, allora lui faceva così, tirava indietro i capelli, a volte se li legava e poi mi faceva riascoltare, mi diceva: vedi che il filingometro funzionava, fidati sempre del filingometro. Parola di Yahweh. Fayez, uomo e musicista fondamentale per Elio e le Storie Tese. Loro sono stati, oddio, io ne parlo al passato perché nominalmente si sono sciolti, però intanto si sono sciolti, ci ha messo un anno a sciogliersi, per cui non è detto che poi non ci sia la possibilità di rivederli. E comunque, se loro sono uno dei gruppi italiani più importanti della nostra musica, è anche grazie alla presenza di un personaggio come Paolo Panigada. Non manca mai l'occasione per ricordarlo, come alla consegna del premio della critica che hanno conquistato a Sanremo nel 2013. Vincono il premio della critica Mio Martini, sezione campioni, Elio e le Storie Tese. Elio e le Storie Tese, chiamiamoli. Bravi, bravi, bravi. E naturalmente noi dedichiamo questo premio al nostro compagno Fayez. I ragazzi non lo dimenticano, lo citano sempre alla fine di ogni concerto, vogliono rendere omaggio a un personaggio così ben voluto. In occasione del concerto definitivo, quello che doveva essere l'ultimo della loro carriera, nel dicembre del 2017, il Forum di Assago lo ha ricordato così. Forza Panino, uno dei soprannomi affibbiati negli anni a Paolo Panigada, ha detto Mu Foglia, Shmon Foglia, Sfoglia, Foyage, Fognac, Fegnez e infine Fayez. Forza Panino è il coro che chiude i concerti di Elio e le Storie Tese, uno dei momenti che pur nella sua ilarità diventa emozionante, perché i fan sanno che questo sorriso è dedicato a un musicista che fisicamente non c'è più, ma del quale si è sempre sentita la presenza sul palco.